E della tenuta del governo. Pomeriggio il dibattito alla Camera sul caso Ruby. Ancora scontri e vittime al Cairo. I leader europei condannano le violenze e chiedono che il processo di transizione sia rapido. Il ciclone Yasi colpisce l'Australia, tempeste di neve negli Stati Uniti, il clima è impazzito o è sempre stato così? Primi guai per la nuova Ferrari a Valencia, la F-150 di Massa prende fuoco. Buongiorno dalla redazione di GR24, buongiorno da Maria Piera Ceci. In primo piano la pagina politica in questa giornata davvero cruciale, a partire dal voto sul federalismo. In diretta con noi Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un voto quello sul federalismo atteso prima alle 12.45, poi slittato a causa di ulteriori tentativi di mediazione tra le parti per arrivare ad un testo che possa ricevere la maggioranza dei voti. Il pressing del governo resta sul finiano Baldassarri, vero e proprio ago della bilancia in bicamerale. Il suo voto contrario determinerebbe infatti un pareggio 15-15 che non avrebbe solo conseguenza sul testo del federalismo, ma come anticipato dallo stesso Bossi sul proseguimento della legislatura. Il leader della Lega ha cercato un'ultima mediazione questa mattina in un faccia a faccia con il presidente della Camera Fini, dopo aver ribadito la sua posizione a Berlusconi nel vertice notturno che si è tenuto a Palazzo Grazioli. Il premier ha intanto riunito in questi minuti i coordinatori del suo partito proprio in attesa dell'esito della bicamerale. In commissione siamo al momento delle dichiarazioni di voto, è presente anche il ministro dell'economia Tremonti. Ricordiamo allora, a meno di sorprese, quali sono le intenzioni di voto, no di PD, Italia dei Valori, Terzo Polo, il sì al testo di PDL, Lega ed SVP, ed in questo momento apprendiamo della conferma del no proprio di Baldassarri. Ed ormai è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Ma quali sono i contenuti del provvedimento? Sentiamo in questa scheda. L'imposta municipale al posto dell'ICI, la cedolare secca al 21% per i redditi da affitto, decurtata al 19% per i canoni agevolati, lo sblocco delle addizionali IRPEF, la tassa di soggiorno per i turisti. Il testo del decreto sul federalismo fiscale per i comuni che arriva oggi al voto recepisce alcune istanze di opposizione e ANCI, ma non appare rivoluzionato. La cedolare scatterebbe da quest'anno, potrebbe convenire a proprietari di case in affitto con reddito sopra i 15.000 euro, sopra i 28.000 per chi affitta a canone agevolato. Nessun bonus per gli affittuari, ma un blocco degli affitti. Via libera all'addizionale IRPEF per i comuni, anche retroattiva, non oltre però lo 0,4%. Altri punti importanti: la compartecipazione dei comuni all'IVA al posto della compartecipazione all'IRPEF, un fondo perequativo, la nuova imposta municipale con aliquota al 7,6 per mille, sconto del 50% per le case affittate al posto dell'ICI, in vigore dal 2014. Si prevede anche una tassa di scopo a livello locale per le infrastrutture, un'imposizione unica sulle compravendite e la conferma della tassa di soggiorno per i turisti. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma oggi è anche il giorno del dibattito a Montecitorio sul caso Ruby e del voto della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Dopo lo scontro nella giunta per le autorizzazioni passa all'aula di Montecitorio la parola sul caso Ruby. Il voto sulle perquisizioni chieste dalla Procura di Milano nell'ambito delle indagini è previsto nel tardo pomeriggio. Non dovrebbero arrivare sorprese per la maggioranza, che sulla carta può contare su una dozzina di voti di vantaggio. Il centrodestra punta a rinviare le carte dell'inchiesta alla Procura di Milano, che non ritiene competente a giudicare Berlusconi per le accuse di concussione e prostituzione minorile. La maggioranza sarà compatta, assicurato stamattina il ministro della giustizia Alfano. Annuncia invece battaglia l'opposizione, che ha già chiesto a Berlusconi di dimettersi e di presentarsi di fronte ai giudici per rispondere delle accuse che gli vengono contestate. In vista del voto oggi pomeriggio il Partito Democratico ha anche precettato tutti i suoi deputati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E allora ci colleghiamo per un punto con Stefano Folli del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Allora, una giornata davvero cruciale, una giornata importante con questo doppio appuntamento: da un lato il voto sul federalismo, dall'altro il voto sul caso Ruby. Qual è la sensazione a questa metà giornata? Ma la sensazione è che sul federalismo, che tutto sommato rimane l'appuntamento più rilevante, il merito della questione del fisco municipale sia stato un po' travolto da considerazioni di carattere politico più generale. Si vota e si decide in base a schieramenti che si stanno mettendo in posizione, vedendo il logoramento del quadro generale in cui opera il governo e la maggioranza. C'è un quadro molto sfilacciato e c'è la sensazione che comunque siamo vicini a un punto di svolta che probabilmente segnerà anche la legislatura, ma in ogni caso la fine di questo equilibrio. E quindi in base a questo c'è questo enorme nervosismo, c'è la sensazione che questo voto se non sarà chiaro a favore della maggioranza, e allo stato delle cose siamo quantomeno su un piede di parità, no? 15-15, potrà determinare, se non subito oggi, ma in un prossimo futuro, qualche scossone definitivo. Ecco, invece dicevamo doppio appuntamento, perché nel pomeriggio c'è il dibattito a Montecitorio sul caso Ruby e anche il voto della giunta per le autorizzazioni a procedere. Da questo punto di vista? Ma qui la maggioranza è un po' più salda, però c'è una considerazione. Non dovrebbero esserci sorprese. Non ci dovrebbero essere sorprese. Resta il fatto che la questione Ruby e tutta la vicenda dell'inchiesta giudiziaria è tutt'altro che conclusa. Probabilmente quella è una mina extra politica, diciamo, che con tutte le considerazioni che si possono fare su questa vicenda, continua questa mina a, insomma, essere piuttosto destabilizzante per i rapporti politici e per il destino personale di Berlusconi. Grazie a Stefano Folli, che sicuramente risentiremo nel corso di questa lunga e frenetica giornata. Grazie mille a Stefano Folli del Sole 24 Ore. A casa mia a Torino ho subito una perquisizione corporale, lo fa sapere il componente laico del CSM Matteo Brigandì, sospettato di aver divulgato atti secretati di un procedimento sul PM di Milano Ilda Boccassini. Già la notte scorsa gli inquirenti avevano perquisito la sua abitazione sequestrandogli il computer. E stamattina alla Camera le parole del ministro degli esteri Frattini sulla situazione in Egitto e sul carteggio di Santa Lucia con il governo sull'ormai famosa casa di Monte Carlo. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, sono intervenuto per tutelare l'immagine delle istituzioni, per fugare ogni dubbio suscitato da false ricostruzioni sulla manipolazione del documento. Si difende così Frattini in merito alla vicenda della casa di Monte Carlo, ribadisce la competenza della Farnesina nel chiedere chiarimenti ad un governo straniero, assicura di aver compiuto solo passi ufficiali nel suo carteggio con Santa Lucia, interventi per i quali, lo ricordiamo, Frattini è indagato per abuso d'ufficio, ma sentiamo su questo cosa ha detto il ministro. Come è noto, un cittadino che le agenzie di stampa hanno definito un militante del movimento politico Futuro e Libertà ha presentato una denuncia. Conseguentemente, come atto ovviamente dovuto, la Procura di Roma ha avviato un'indagine. Tuttavia, la verità è una sola e ne sono certo sarà rapidamente accertata dalla giustizia. Durissima però la replica del capogruppo alla Camera Bocchino. Sentiamolo. La verità che si è prestata ad una operazione di dossieraggio dissennata con un obiettivo antistituzionale teso a colpire la terza carica dello Stato, e l'ha fatto piegando a questa logica i mezzi della diplomazia italiana, facendolo senza averne titolo. Era il capogruppo di Futuro Libertà alla Camera Bocchino. Questa mattina Frattini, poi sempre in aula, ha riferito anche sull'Egitto, lanciando la proposta di un patto europeo per la sponda sud del Mediterraneo che sostenga i diritti e la sicurezza, perché, ha detto il ministro, non possiamo permetterci il rischio che il bacino del Mediterraneo diventi transito di flussi di disperati. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi, e noi ci trasferiamo proprio in Egitto per un aggiornamento da Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che si trova in questi giorni al Cairo. Alberto, allora, qual è la situazione in questo momento? In questo momento sono ripresi gli scontri in una parte della piazza Tahrir, in quella versante che dà oltre il Museo Egizio verso l'hotel Hilton Ramses. In quella zona già da questa mattina c'erano stati delle tafferugli, delle scazzottature, ci sono i manifestanti pro Mubarak, che poi sono uomini dei servizi o della polizia, che stanno in qualche modo cercando di registrare la situazione. Dall'altro lato c'è invece un tentativo di mediazione, di negoziazione. Secondo il primo ministro Ahmed Shafik, tra qualche ora dovrebbe esserci una delegazione del governo, dei rappresentanti del governo, dovrebbe andare in piazza e parlare con i manifestanti anti-Mubarak per cercare di evitare un'altra giornata terrificante con morti e feriti come quella di ieri. Grazie ad Alberto Negri, che si trova al Cairo per il Sole 24 Ore. Questa mattina una nota congiunta dei capi di Stato e di Governo di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna. Assistiamo con estrema preoccupazione al deterioramento della situazione in Egitto, si legge nella nota. Il popolo egiziano deve poter esercitare il proprio diritto a manifestare pacificamente, a beneficiare della protezione delle forze di sicurezza. Le aggressioni contro i giornalisti sono inaccettabili. E l'effetto domino di cui si parla ormai da giorni nella regione ha raggiunto lo Yemen. Oggi la giornata della collera indetta dalle opposizioni yemenite a Sana'a. Diverse centinaia di manifestanti filogovernativi sono infatti scesi in piazza. I dimostranti si sono radunati in piazza Tahrir, che porta lo stesso nome di quella del Cairo. Almeno 20.000 partecipanti al corteo contro il regime di Saleh. Farihan Sabahi, autrice del libro Storia dello Yemen, appena pubblicato con Bruno Mondadori. Allora, buongiorno Farihan, qual è la specificità di questo paese? Quali sono le motivazioni dietro le proteste yemenite? Direi povertà, diseguaglianze sociali, corruzione ai vertici e mancanza di pluralismo politico. Lo Yemen è il più povero tra i paesi arabi, ha poco petrolio e anche poca acqua, che viene assorbita in buona parte dalla coltivazione del cat, un alcaloide che dà dipendenza e che è consumato da tutta la popolazione. Ecco, in Yemen vivono 23 milioni di abitanti, la metà vive sotto la soglia di povertà, cioè con meno di $2 al giorno, e un terzo soffre addirittura la fame cronica. In questo contesto il clan del presidente Salah gestisce il paese come una proprietà privata, di fatto come succedeva anche nella Tunisia di Ben Ali. Quante speranze ci sono che anche qui Saleh possa cadere, come sta succedendo in altri paesi? Dopo le proteste della scorsa settimana, il presidente Salah aveva cercato di mettere una pezza, promettendo di aumentare i salari dei dipendenti statali, dei militari, nel tentativo di comprarne la lealtà. Il grande problema è che in Yemen è povero anche chi ha un salario. Poi il presidente ha annunciato di dimezzare la tassa sul reddito, ma in realtà non è che si paghino grandi tasse in Yemen, non c'è un vero e proprio sistema fiscale, e poi ha dato ordine di calmierare i prezzi dei generi di prima necessità. In ogni caso, molto dipenderà da quello che succederà in Egitto, perché se il presidente Mubarak lascerà il Cairo, allora questo incoraggerà anche gli yemeniti, dove tra l'altro a guidare le proteste sembra essere una donna, Tawakkul Tarman, perché nel paese delle spose bambine è una giornalista, capo dell'associazione Donne Senza Catene, appunto a essere in testa ai manifestanti. La polizia l'aveva arrestata nella sua abitazione settimana scorsa con l'accusa di fomentare disordine, ma poi erano stati obbligati a rilasciarle a causa della pressione popolare. Vogliamo ricordare da quanti anni governa Saleh? Dal 1978, ed è colui che nel 90 è riuscito a unificare il paese, quindi sicuramente ha avuto quel merito. Il problema è che le proteste non sono soltanto a Sana'a, ma anche nella città di Aden, che protesta proprio perché dopo l'unificazione non sono stati fatti gli investimenti necessari. Grazie a Farihan Sabahi, autrice del libro Storia dello Yemen. E siamo alla pagina economica, a cominciare dai dati INPS, buoni per fortuna sulla cassa integrazione. Drastica riduzione a gennaio del ricorso delle imprese alla cassa integrazione. Lo certifica l'INPS, rilevando che sono state autorizzate 60 milioni di ore di CIG, con una diminuzione del 25,5% rispetto al gennaio 2010 e del 30,3% rispetto a dicembre. È un segnale importante, secondo il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. Sicuramente con queste percentuali cominciano a far immaginare che, essendo il sesto mese consecutivo, ci sia non solo un'inversione di tendenza, ma uno spiraglio, o forse un po' più di uno spiraglio di luce all'orizzonte. Per il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, il minore ricorso alla cassa integrazione testimonia la ripresa della produzione, per quanto ancora selettiva. Il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, concorda sulla ripresa di una parte dell'economia, ma sottolinea che il problema rimane la disoccupazione. E questo, dice, il vero indicatore di cui bisogna tener conto. Nicola Filippone, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questi invece sono dati Confcommercio. La crisi colpisce ancora le famiglie italiane e i consumi restano fermi anche a dicembre a meno 0,5%, mentre per l'intero 2010 il calo è stato dello 0,4%. Ma la sfavorevole congiuntura economica spinge i mercati degli agricoltori, a cui lo scorso anno si sono rivolti oltre 8 milioni di italiani. È quanto emerge dal primo dossier elaborato da SVG sui Farmers Market in Italia. Il presidente di Coldiretti, Sergio Marini, ha spiegato le ragioni di questo successo al microfono di Adriana Fracchia. Le motivazioni, a mio giudizio, sono sostanzialmente tre. Una è la grande sostenibilità ambientale del percorso, per cui parliamo di un prodotto venduto sul luogo di produzione, dove c'è anche una forte riduzione degli imballaggi, non OGM è garantito rispetto a questo. Poi il porto prezzo qualità, un prodotto generalmente che rispetto alla qualità che ha intrinseca ha un prezzo molto vantaggioso. Nella stragrande maggioranza dei casi il prezzo è del 30% inferiore a quello previsto dall'SMS consumatori, e questo con l'accordo con le associazioni dei consumatori. Poi c'è anche la socialità che si recupera dentro il farmer market, la possibilità di parlare direttamente con i produttori, conoscere i processi produttivi. Ecco, questi sono tanti elementi che fanno di questo modello distributivo un modello di successo. E chi non se la ricorda questa sigla? La sigla di Dallas, la soap opera americana che ha spopolato nel mondo e vanta 13 stagioni fra la fine degli anni 70 e gli anni 80. Ebbene, Dallas compie 30 anni e J.R., Bobby e Sue Ellen tornano sui teleschermi. La nuova stagione presenterà la discendenza della dinastia Ewing e si incentrerà sugli scontri per la gestione degli affari, tanto per cambiare. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della partita iniziata sul federalismo in bicamerale, una partita che si gioca anche per il governo. Nel pomeriggio il dibattito alla Camera sul caso Ruby. Ancora scontri e vittime al Cairo, come abbiamo sentito dal nostro inviato Alberto Negri. Leader europei intanto condannano le violenze e chiedono che il processo di transizione sia rapido. Crollo delle richieste, questa è una buona notizia, per la cassa integrazione a gennaio. Il ministro Sacconi dice i dati confermano la ripresa della produzione. E ripartiamo da quanto sta accadendo invece fra Australia e Stati Uniti alle prese con cicloni e tempeste. Anche il presidente americano Barack Obama si è occupato direttamente dell'enorme tempesta di neve che sta appunto sconvolgendo una vastissima area degli Stati Uniti e soprattutto le regioni del nord-est. I notiziari parlano di oltre 10.000 voli cancellati, migliaia di macchine bloccate sulle autostrade, tanta gente senza luce in tante zone si invita a non uscire di casa. Intanto invece è finita per fortuna la grande paura per un quarto di milione di australiani residenti lungo i 700 chilometri di costa nord orientale dopo il passaggio del ciclone Yasi, uno dei più violenti nella storia dell'Australia. Il ciclone, che si è abbattuto sul Queensland di categoria 5, la più alta, ha causato danni meno gravi del previsto e per il momento non si ha notizia di morti o feriti gravi. La premier del Queensland, Anna Blight, ha tuttavia avvertito della possibilità di cattive notizie man mano che le squadre di soccorso si aprono la strada verso i centri più colpiti. Gigi Donelli si è fatto una chiacchierata con Sergio Ortolani, astronomo dell'Università di Padova, e gli ha chiesto se i fenomeni climatici così estremi sono aumentati nell'ultimo periodo. Non è detto che sia esattamente così, perché il mondo è grande, oggi la comunicazione è molto rapida, per cui fenomeni estremi che arrivano eccezionalmente da qualche parte del mondo arrivano a noi molto rapidamente rispetto a una volta. Voi avete compiuto un'indagine su addirittura 1000 anni di clima nel territorio di una parte della pianura padana. Gli imprevisti sono protagonisti della storia che avete tracciato? Certamente, è un aspetto assolutamente affascinante e per certi versi anche per noi relativamente nuovo. Ci sono dei fenomeni estremi di clima con piovosità particolarmente elevate o periodi prolungati di nebbie o periodi di temperature particolarmente basse che sono curiosi ed interessanti e se si guarda nel passato sono effettivamente direi sconvolgenti visti con l'occhio di oggi. Dopo ogni tempesta noi ci interroghiamo ormai in questi anni su climate change e riscaldamento climatico. Ci sono davvero collegamenti? Non è ancora chiaro se effettivamente ci sia un collegamento, diciamo, che vada al di sopra di fluttuazioni statistiche. C'è un aumento progressivo di temperatura, questo è fuori dubbio. Eventi come quelli di cui parliamo, la tempesta negli Stati Uniti, il ciclone Yasi che si abbatte sull'Australia, vanno considerati come fenomeni, diciamo, meteorologici o anche climatici? Sono fenomeni meteorologici. A Milano continua intanto a risuonare l'allarme smog. Siamo al 21esimo giorno consecutivo di sforamento dei limiti di PM10 nell'aria. Colpa di traffico e riscaldamento, certo, ma forse anche di misure che non tengono conto del respiro della città. I movimenti complessi che vengono in atmosfera, spiega Maria Cristina Mammarella, ricercatrice dell'Enea, hanno un andamento ormai studiabile, sono determinanti per la dispersione degli inquinanti. L'intervista di Laura Bettini. C'è stato questo progetto di ricerca che si è svolto nella Valle del Biferno, dove c'è un grande centro industriale, e questo progetto ci ha permesso di poter mettere a punto come si comporta il Planetary Boundary Layer. Che cos'è? È uno strato di aria calda che naturalmente si forma da luogo a luogo. Cosa significa? Significa che ogni località ha un suo modo di respirare, perché quando questo strato di aria calda cala su una città o su una valle o su un luogo, questo in realtà spinge gli inquinanti verso il basso. Noi ricercatori siamo arrivati al punto di definire meglio questo concetto, il concetto di meteo diffusività, che dà la misura, la capacità di un luogo a diffondere o invece a concentrare gli inquinanti. Facciamo un esempio per far capire. Un determinato luogo respira con un andamento che è stato monitorato e quindi è noto. Come potremmo noi adattare la nostra vita a questo respiro della città? Per esempio, se noi sappiamo che in certe ore del giorno abbiamo un PBL basso, forse le attività sportive è meglio non farle. Oppure, ad esempio, magari fare un blocco del traffico serale piuttosto che mattutino. Certo, sì, è chiaro. Restiamo su temi ambientali, perché fumare nella grande mela sarà sempre più difficile. Sentiamo perché. Fumo blu, una nuvola dentro tu. Il fumo passivo uccide, dicono le statistiche. E così il Consiglio Comunale di New York ieri ha deciso di vietare le sigarette anche in varie zone cittadine all'aria aperta. Si va dai quartieri pedonali come Times Square ai parchi pubblici fino alla spiaggia di Brighton Beach a Brooklyn. Il divieto entrerà in vigore tra 3 mesi e per coloro che non lo rispetteranno sono previste multe sino a $50. Passato con 36 voti favorevoli e 12 contrari, il provvedimento aspetta solo la firma del sindaco Michael Bloomberg, che già nel 2003 ha vietato l'uso del tabacco nei luoghi pubblici e nei bar. Niente più parchi o spiagge disseminate di mozziconi, ma aria fresca per i newyorkesi in cerca di refrigerio quest'estate, dice il sindaco, che soddisfatto sottolinea come grazie agli sforzi degli ultimi anni sia ridotto il numero dei fumatori, 350.000 in meno, e come i newyorkesi ora vivano in media 19 mesi in più rispetto al 2002. Tempi sempre più duri per i tabagisti, per i quali il provvedimento è ingiusto e rappresenta un'intromissione nelle libertà individuali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stamattina conferenza stampa della Guardia di Finanza di Milano. Raffaella Calandra, buongiorno. Cosa è emerso? È emerso che gli strumenti si fanno sempre più sofisticati, ma l'obiettivo resta sempre lo stesso, cercare di eludere il fisco. Infatti aumentano gli evasori totali e aumenta la criminalità economica. Questi i dati principali del rapporto annuale della Guardia di Finanza Lombarda. 973 quelli che il fisco lo ignoravano del tutto, più 25% rispetto al 2009, per un'evasione di 7,5 miliardi da sommare agli oltre 40 solo in Lombardia tra mancate imposte dirette, IVA e IRAP, tutti soldi sottratti alle casse dello Stato, come quelli che sempre più spesso in molti cercano di portare illecitamente all'estero con società fittizie o finte residenze, per un'evasione di circa 6 miliardi. Questo per le Fiamme Gialle è stato però anche l'anno del lavoro sulle liste degli evasori delle banche estere o dei sequestri alla malavita al nord. Immobili e aziende per un valore di circa 20 milioni sono stati sequestrati all'Andrangheta sotto al Duomo. Ed è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. A Firenze invece la deposizione in aula del pentito Gaspare Spatuzza. A Firenze sono venuto da terrorista, torno da pentito e intendo chiedere perdono. Così Gaspare Spatuzza, il pentito di mafia, le cui rivelazioni hanno riaperto i dossier sulle stragi dei primi anni 90, si è presentato oggi nell'aula bunker per essere ascoltato nel nuovo processo sulla strage di Via dei Gergofili, che vede come unico imputato Francesco Tagliavia. Il nostro obiettivo era colpire la città nel cuore e ci siamo riusciti, ha detto Spatuzza, chiedendo perdono. Un perdono che però i parenti delle vittime non sono disposti a concedere. Siamo con Spatuzza come collaboratori di giustizia, ha detto la presidente dell'Associazione delle Vittime Giovanna Maggiani Kelly, ma sul perdono si rassegni. Su Francesco Tagliavia, Spatuzza ha spiegato di averlo visto per la prima volta nell'86-87. Eravamo partecipi per spingere il Partito Socialista, ha chiarito. Negli anni seguenti abbiamo fatto degli omicidi insieme. Spatuzza ha raccontato anche che nella villetta in cui si svolse l'incontro per organizzare l'attentato a Firenze c'erano Giuseppe Graviano, Francesco Tagliavia, Matteo Messina Denaro, Barranca e Giuliano. Loro, ha aggiunto, avevano già fatto sopralluoghi in città per l'attentato. Vanessa Quinto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era ubriaco e ieri sera un medico di Sassano, piccolo centro a sud di Salerno, ha causato un incidente stradale nel quale sono morti 2 fidanzati di 27 e 22 anni. È da registrare un morto e 5 feriti in un incidente stradale questa mattina sull'A14 Milano-Venezia, A4, Milano-Venezia in provincia di Brescia, un morto anche sulla tangenziale est di Foggia. Primi problemi alla nuova Ferrari F-150 sul circuito di Valencia, dove è in corso la terza ed ultima giornata di test in vista del Mondiale 2011 di Formula 1. La monoposto, guidata oggi da Felipe Massa durante il 12° giro e poco dopo aver fatto segnare il miglior tempo, ha accusato un piccolo incendio e fra la curva 3-4 la rossa del brasiliano è andata in testa a coda. Le fiamme sprigionate dalla vettura sono state causate da una perdita d'olio finita sugli scarichi. Massa ha così dovuto interrompere le sue prove a bordo della sua F-150. Il brasiliano tornerà in pista nel pomeriggio. Complici i buoni risultati ottenuti in gennaio con l'approdo in panchina di Leonardo, oltre alla messa di titoli raccolta in precedenza da Mourinho e Benitez, l'Inter si conferma in testa alla graduatoria dell'Istituto Mondiale di Storia e Statistica Calcistica. Alle spalle dei nerazzurri, fra febbraio 2010 e gennaio 2011, ci sono Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid. Nessun'altra squadra italiana figura fra le prime 10, la Juve è 12°. E infine parliamo di una nuova frontiera dei quotidiani. Ladies and gentlemen, The Daily. Voce di Jesse Angelo, il direttore del The Daily, il quotidiano, proprio così si chiama il primo ad essere stato concepito esclusivamente per l'iPad dell'Apple e per ora solo per i lettori americani. Tutto nasce in casa del più grande editore del mondo e ancora una volta potrebbe essere Rupert Murdoch, che l'11 marzo compirà 80 anni, a fare da apripista nel nuovo mercato dell'editoria digitale, quella che va al di là dei computer collegati ad internet e guarda al prossimo immenso mercato dei tablet. Credo che in America chiunque possa permetterselo comprerà un tablet, dice Murdoch. Per questo The Daily potrebbe presto essere disponibile anche per Android, oltre che per iPad. Oggi i lettori americani possono scegliere se abbonarsi per $40 all'anno o comprare una settimana a 99 centesimi. Così poco, dice Murdoch, che sul conto della carta di credito nessuno ci fa caso. Vedremo. Intanto il primo numero ha in copertina una storia sull'Egitto, articoli brevi, belle foto, video e grafica interattiva. 100 giornalisti e budget iniziale di $30 milioni. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in studio Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.